Radio 24 Reportage. Se la città dell'Expo finisce sempre sott'acqua, di Raffaella Calandra. Non ne possiamo più di subire sempre le stesse cose. Lo voglio proprio vedere. Se in pieno Expo succede una roba così. Con gli stivali ancora ai piedi e i sacchetti di sabbia in mano, Mario guarda sullo sfondo da una parte il profilo luccicante dei grattacieli, dall'altra un cartellone col logo dell'Expo. Gli schizzi di fango sono arrivati fin là e nel pieno dell'ultima emergenza per l'ennesima esondazione del Seveso è il sapore dell'ironia beffarda, il pensiero dell'Expo tra un anno, della sua grandezza, del suo slogan sulla sostenibilità ambientale e di uno dei suoi progetti proprio sulle vie dell'acqua. Un'ironia beffarda, ora che un temporale estivo, per quanto intenso, ha di nuovo bloccato parte di Milano e mandato in tilt la capitale economica del paese. Non è la prima volta, perciò in 22 anni io di danni ne ho avuto tantissimo. Non ho mai avuto una persona che è venuta a dirmi un qualcosa per far fronte a questi danni. Sono esasperata, a dir poco, ma non solo io, come tutti i commercianti di questa zona. Cioè, ogni volta che piove Ogni volta che piove noi siamo terrorizzati, non dormiamo la notte perché al mattino pensiamo che ci risiamo. Ancora una volta ci risiamo, come di fatti. 15 giorni fa è successo lo stesso, allagamento, giornata persa. Un disastro, che non mi vengono a dire che non c'è niente da fare per questo problema, che non mi vengono a dire che non lo sapevano, che non mi vengano a dire che ne dobbiamo sempre rispondere, sempre solo noi, di qualcosa bisogna, cioè, si poteva fare, si deve fare, si può fare. Io non ci credo quando mi vengono a dire che questo problema non si può risolvere. Mi scusi, io sono nata a Camerota in provincia di Salerno. Parlano tanto del meridione che indietro, ma qua siamo a Milano. Città del Politecnico, la città dell'Expo. Ecco. Nel frattempo, in questi 20 anni, avete dovuto un po' organizzarvi autonomamente per far fronte. Sempre solo noi. Cioè, avete i sacchetti da qualche parte? I sacchi dietro la portineria, in portineria. Prenderli, metterli fuori, premunirci di sbarre di ferro per non far passare l'acqua. Se si bruciano i motori, a noi chi ce li paga? Nera che porta via la via. Nera che non si vedeva da una vita intera, così dolce nera, nera. Il suo primo allagamento, Maria Rizzuti lo ricorda bene. All'epoca Milano era ancora quella da bere, l'economia girava e le insegne si accendevano più che spegnersi. Anche allora però questa energica barista di Viale Stelvio faceva i conti con le esondazioni del fiume sotterraneo, proprio come ora, che fango e acqua hanno inondato la cantina e sporcato il bar, solo con molta più rabbia in corpo e molta meno fiducia di un tempo. Un disastro, che non mi vengono a dire che non c'è niente da fare per questo problema, che non mi vengono a dire che non lo sapevano. Il comune, la regione, il sindaco, gli assessori, tutto quello che volete, sta causando dei danni, perché non ne risponde? Perché non ne risponde? Ma non solo a me, a tutti i commercianti della zona, subire sempre non va bene, siamo veramente stufi. La rabbia fa gara con la rassegnazione man mano che da Viale Zara si avanza verso nord-ovest, verso viali e strade che il Seveso ciclicamente trasforma in fiumi di acqua melmosa, costringendo residenti e commercianti ad improvvisare prolungate barriere. Acqua che non si aspetta, altro che benedetta, acqua che porta male, sale dalle scale, sale senza sale, sale. Il decalogo dell'alluvionato cronico qui, in questa parte di Milano, dove vecchie villette si specchiano in avveniristici grattacieli, l'hanno imparata in fretta tutti. Sacchetti di sabbia, sbarramenti di legno, infissi speciali, ma ogni volta comunque l'acqua, l'acqua che porta via la via, come cantava Fabrizio De André, arriva. Il fenomeno esondativo verso le 5 del mattino, io sono venuto qua alle 6. Si vedono i segni dell'acqua. Sì, mi hanno chiamato gli inquilini, sono arrivato e praticamente l'acqua era a 35-40 centimetri di livello, per cui è saltato l'impianto elettrico, cioè la pompa non pompava, per cui di conseguenza ci siamo allagati e quando siamo riusciti a entrare verso le 2 e mezza, perché prima c'era tutta la rampa, vede, la riga dell'acqua era, fuori era ancora di più perché era circa 60 centimetri, non si riusciva a aprire la porta. Qui noi abbiamo ancora da lavorare per almeno un'altra settimana, perché qui bisogna pulire, far funzionare l'impianto elettrico che è andato sott'acqua e poi riprendere, cioè, ma per riprendere l'attività dobbiamo rifare i pavimenti, riverniciare, rimettere tutto a posto. I computer sono tutti saltati, non sappiamo neanche se ce li ripristinano subito. Ad occhio, che danni avete avuto? Faccia conto che solo il pavimento saranno 3-4 mila euro, poi c'è la verniciatura, poi ci sono tutti gli impianti elettrici, non so, facciamo 15 mila euro, 20 mila euro, chi lo sa. È il fango che ha creato i problemi. Oltretutto qua l'abbiamo già pulito, l'abbiamo già spalettato, eppure ce n'è ancora tanto. E ci siamo ritrovati con 70 centimetri di acqua dentro nel magazzino e tutto che poi non era solo acqua, era anche fogna, che è la cosa peggiore. E adesso ci ritroviamo a pulire e buttare via materiale, attrezzatura e poi tutto quello che abbiamo buttato in teoria vorrebbero anche che ce lo portiamo in discarica, cosa che non possiamo fare, questa è la spesa nostra. Il danno e la beffa, quante cose avete dovuto buttare, più o meno che danni avete stimato? Ma noi come attrezzatura e materiali così intorno alle 10-12 mila euro. Quindi la fognatura non tirava più e poi era andata via anche la corrente, quindi anche i sistemi di pompaggio di emergenza che ci sono non funzionavano. Quindi anni di emergenza con le esondazioni del Seveso e però poi non funziona, cioè tutti i provvedimenti presi non servono, non bastano mai. Ma io non so neanche i provvedimenti che hanno preso, ma secondo me non hanno preso mai niente. Perché c'erano foto dagli anni 70 che era uguale. Abiti qui e nei box vedo ancora i segni dell'acqua. Sì. Ci sono ancora i segni e l'acqua è arrivata all'incirca un metro e ha rovinato tutto, macchine, scooter, e ha lasciato tutto sto schifo. Abbiamo dovuto alzare un muretto per non far arrivare l'acqua all'impianto elettrico dell'intero palazzo. E durante la notte noi siamo scesi per mettere i sacchi di sabbia qua fuori, per non far arrivare l'acqua, ma è entrata ugualmente. Perché avevate sentito che era un temporale molto forte e lo sapete che ormai sì. Il Seveso qui esonda? Sì, è la terza volta in quest'anno. C'è anche una ragazza qua che è arrivata a dicembre di quest'anno, aveva il box qua, aveva la macchina e niente, gli si è rovinato tutto. E adesso dice io voglio cambiare zona. Sì, io voglio cambiare zona, andrò ad abitare da fuori Milano, non si può. Gli ultimi arrivati del quartiere ora pensano anche di andare via. Tra i veterani invece la memoria delle passate esondazioni si tramanda di isolato in isolato. Alle foto in bianco e nero si affiancano i video girati ora con smartphone. Memoria che si trasmette insieme ai suggerimenti pratici imparati con l'esperienza, insieme al passaparola per correre ai ripari quando l'allerta è rossa. Così un'anziana signora con le sue stampelle a fatica si destreggia in largo Vulci tra i cumuli di fango e i getti dei macchinari arrivati per pulire le strade. Dal 63 che abito qua. Quante alluvioni del Seveso si ricorda? non mi ricordo, sono tantissime, perciò non glielo so dire quanti sono. E che il fatto che si continuino a ripetere? Ci avevano detto che facevano l'impossibile per sistemare, ma quando non c'è l'allerta, non c'è le pulizie dei tombini, non c'è le cose, è normale che una cosa salta fuori così. Perché non li puliscono i tombini? Arrivato a un certo punto bisogna dire di no. Mica tanto spesso. Ha voluto chiedere scusa il sindaco Giuliano Pisapia, promette un impegno per risarcire i cittadini dai danni, ma assicura non è colpa della mancata manutenzione. Faremo tutto quanto possibile necessario per risarcire i cittadini dei danni che hanno subito da questo evento di cui non siamo stati informati, della cui criticità non siamo stati informati dalla regione, ma che non può in nessun modo essere addebitata, come qualcuno ha ritenuto, da una mancata o scarsa manutenzione da parte del Comune di Milano. Da una giunta all'altra, da una parte politica all'altra, i progetti e le polemiche ad ogni alluvione, ora del Seveso, ora dell'Ambro, si sono susseguite nei decenni ormai, come le richieste di dimissioni degli amministratori di turno. Porta la data dell'11 aprile 1951 e la firma dell'allora capo dello Stato Luigi Einaudi, il primo piano regolatore per le acque a nord di Milano. Più di 60 anni dopo e dopo mille stop and go e continui rimpalli tra i vari enti acuiti nelle fasi di emergenza, il progetto per la costruzione delle cosiddette vasche di laminazione sta prendendo lentamente corpo, perché la città dell'Expo non può bloccarsi ad ogni pioggia, ripete il primo cittadino, e lo spera l'assessore Marco Granelli, con delega tra l'altro alla Protezione Civile. Questo è un torrente che nasce in Brianza, arriva a Milano e non ha nessun controllo, ha solo un piccolo scolmatore che scarica poi nel Ticino, ma che copre solo una piccola parte. È necessario, a nostro giudizio, il sistema delle vasche di laminazione, che è il meccanismo utilizzato ormai in tutta Europa, e cioè di creare dei bacini che vengono riempiti d'acqua nel momento in cui c'è un carico elevato e poi si risvuotano nel torrente nel momento in cui è finita la piena. Su questo Regione Lombardia ha incaricato uno studio, nello studio è nato una serie di progetti di queste 6 vasche. Abbiamo raggiunto proprio un mese fa un accordo per una prima vasca, che adesso stanno facendo il progetto definitivo e dovremmo incominciare i lavori entro il 2015. Noi abbiamo messo 10-20 milioni per questo, la regione 10, quindi dovremmo essere arrivati verso la parola fine di questi 20-30 anni di attesa. Acqua che ha fatto sera, che adesso si ritira, passa sfida tra la gente come un innocente che non c'entra niente. La data dell'approdo, anche in questo caso, è sempre la stessa per Milano, il 2015, l'anno dell'Expo, l'anno in cui tutti i problemi dovrebbero essere risolti, anche quelli trascinati per decenni, come le esondazioni dei fiumi. Ora che il sole è tornato, con gli stivali ancora ai piedi in pieno luglio, i milanesi registrano richieste di scuse e promesse di aiuto, aspettano con non troppa convinzione i provvedimenti e con le maniche rimboccate nel frattempo, ancora una volta, puliscono il fango da mobili e computer e pure dal cartellone coi colori accesi dell'Expo. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.